Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Un abuso al giorno. Allora, il mio invito, come sempre lo sapete, è quello di segnalare dei casi che possano rappresentare non soltanto chi scrive, ma essere dei casi generali rappresentativi di una moltitudine di persone. Ed è questo il caso che ci viene rappresentato da un radioascoltatore di origine israeliana, Mashadawi Osama, che ci ha scritto una lettera molto interessante. Al di là del caso che lo riguarda, diciamo che è esemplificativo di un certo modo di procedere di alcune imprese commerciali che vendono servizi ad altre imprese e lo fanno talvolta in un modo non propriamente chiaro. Non voglio dire assolutamente che sia illecito o illegale, ma tornare poi indietro dai passi compiuti non è così facile. E la storia ci verrà raccontata dalla viva voce di Mashadawi Osama, che abbiamo collegato e al quale do il buongiorno. Buongiorno. Allora, lei conduce una pizzeria, giusto? Sì, ho una pizzeria. A Roma, diciamo, dove ci troviamo, siamo nella capitale. Ad un certo punto che cosa succede? Che viene contattato, avvicinato da una società. Che cosa le propone questa società? Mi propone una cosa che è una cosa strana, però io, cioè, l'ho detto: guardi, cioè, io di questo contratto non me ne faccio niente adesso, devo parlare col mio avvocato e il mio commercialista per riuscire a capire che cosa si tratta. Sì, quindi lei viene avvicinato da una società che le vuole vendere dei servizi, poi sentiremo di che tipo di servizi si tratta, però lei vuole prendere tempo e dice: no, aspetta un secondo, vorrei, come dire, prima parlarne con l'avvocato e poi firmare il contratto. Certo. Giusto? Giusto. Però che cosa succede? Che lei quel contratto comunque lo firma. Io l'ho firmato, però, cioè, non è che l'ho firmato volontariamente. È una cosa strana, nel loro modo. Cioè, io ho parlato con quel signore Fugazzaro Umberto, in pratica, sì. L'ho detto chiaramente: io questo contratto non lo firmo. E invece lui mi ha spiegato, mi ha detto, noi non facciamo il contratto, lo facciamo dopo. Quello adesso, che lei firma adesso, diciamo così, è una specie di precontratto, comunque, ecco, un impegno, diciamo. Non è un impegno, anzi, non mi ha detto che è un impegno, ma ha detto in pratica che la ditta manda uno, sì, e lì succede, poi facciamo il contratto. In pratica lui mi ha detto che lui, solo per far vedere all'azienda che lui è venuto, mi ha spiegato tutto, sì, e dopo facciamo il contratto. Mentre invece lei a questo punto si vede recapitare una bella lettera in cui dice che se vuole rescindere dal contratto che è stato firmato e che è il vero e proprio contratto, deve pagare una penale. E lei non ha nessuna intenzione di pagare questa penale. No, perché non è giusto neanche, perché qualsiasi contratto nel mondo, anche se lo prendiamo, va bene che io l'ho accettato, cioè si può fare il recesso anche. Ecco. E invece il loro contratto non esiste questa. Allora, benissimo, io ho anche il contratto, il signor Mashadawi Osama è stato correttissimo, ci ha spedito anche il contratto ed effettivamente si vedono il timbro della CZ Empire SRL e la firma di Mashadawi Osama. Se sia un contratto o meno non sono in grado di dirlo, ma questi documenti li ho visti, ce li ha spediti. Sentiamo ora la controparte, vale a dire l'avvocato Guido Giannubilo, che rappresenta la CZ Empire SRL. Buongiorno Giannubilo. Dottor Galullo, buongiorno. Allora, che tipo di servizi intanto vende e presta la CZ Empire SRL? Sì, la società vende una serie di servizi che non sono erogati direttamente dalla stessa, ma bensì dai suoi partner commerciali cui ha un accordo tramite il suo portale internet. Il cliente, nel caso specifico di Mashadawi, ha la possibilità di collegarsi via internet e accedere a una serie di servizi che consistono in ricariche telefoniche, in acquisto di biglietti per eventi sportivi, tranne il calcio, biglietti teatrali, biglietti di concerto, ricariche telefoniche, la possibilità di fare visure presso la Camera di Commercio, costruire dei domini internet, insomma tutti questi servizi appunto che vengono erogati online. E quale sarebbe il costo, diciamo così, annuale per questi servizi resi? Il costo è una compravendita, è un contratto abbonamento editoriale e il prezzo è sui 5.000 e passa euro. All'anno? Un contratto che dura 4 anni con la possibilità di utilizzare questi servizi per altri 2 anni. Quindi 5.000 euro per 4 anni? Per 4 anni più altri 2 anni, alla fine sono 6 anni di contratto. Ok, allora però qui il punto, al di là della spesa, è che il nostro radioascoltatore dice: io non credevo di aver firmato il vero e proprio contratto perché mi è stato detto che era semplicemente, come dire, una dimostrazione che a lui serviva, al rappresentante serviva, per mandare poi chi veramente avrebbe dovuto stipulare il contratto. E aggiunge poi: anche se così fosse, signori miei, io voglio tornare indietro, non voglio nemmeno pagare la penale. Allora, che cosa, come la vede lei la situazione invece, visto che rappresenta l'impresa che ha venduto questi servizi? Io infatti volevo soffermare su questo aspetto, non tanto sulla bontà del contratto, sull'oggetto del contratto, perché sono stati usati un po' dei termini un po' forti, in maniera illegale, la società vincola un soggetto e poi è molto difficile districarsi da questo concetto, soprattutto svincolarsi. No, io veramente ho detto il contrario, ho detto in maniera sicuramente non illegale, anche se è difficile svincolarsi, quindi ho detto il contrario, avvocato. Ho capito in un altro modo. Comunque non è quella la questione. Il signor Mashadawi ha mandato una documentazione, che è il contratto, dove è abbastanza chiaro il contratto ha sottoscritto. Tra l'altro all'operatore, questo forse non ve l'ha mandato, ha rilasciato una dichiarazione che io le posso leggere e posso far arrivare in qualsiasi momento, dove dice: ringrazio il dottor Fugazzaro per aver illustrato con chiarezza tutti i punti della campagna pubblicitaria CZ Empire, alla quale ho aderito con un entusiasmo come da modulo da me sottoscritto. Quindi ha avuto una buona illustrazione del... Ecco, del no, questa è una cosa importante, questa è una cosa importante. E allora chiedo a Mashadawi, ma è vero che lei era strafelice di quello che aveva firmato? No, non è così, perché lui in quel foglio ha scritto lui in pratica, mi ha detto in pratica, però l'ha scritto lui e io non l'ho visto, solo l'ho fermato perché mentre lavoro anche... Cioè, mi hai spiegato tutto. Ah, ho capito, È chiaro. No, ho capito. Allora ritorniamo da Giannubilo. Giannubilo, in buona sostanza, sarebbe stato, credo aver capito, un prestampato in cui era felicissimo. Peccato che però le felicitazioni erano state scritte probabilmente dalla stessa CZ. Io ho questo documento che è sottoscritto da Mashadawi, però per precisare la questione, il signor Mashadawi mi ha chiamato prima ancora che fossi contattato dalla società, che mi dicessero appunto che c'era un contatto con Radio 24. Allora, il Mashadawi mi diceva: ah, avvocato, chiedo di recesso, io sono disposto a pagare la clausola di recesso perché lo so che ho fatto il contratto, ho sbagliato a sottoscrivere, però sono disposto a pagarla, però io 1.400 non li posso dare, che è la clausola la penale, in buona sostanza, diciamo, della penale, sì. Perché invece a titolo di recesso non è proprio una penale, a titolo di recesso viene indicata questa somma che sono le spese che vengono sostenute dalla società. La stessa società, prima ancora appunto di essere da voi contattata, mi autorizzava a chiudere la trattativa a 1.000 euro, sobbarcandosi le spese anche mie. Allora, le parti sono chiare. La parola conclusiva a Paolo Landi, segretario generale di Adiconsum. Sì, la cosa è molto semplice. Allora, cominciamo col dire che a livello del codice del consumo, quindi sul piano legale, esiste un diritto, cosiddetto diritto al ripensamento, nel senso che uno, quando ha firmato un contratto, fuori dai locali commerciali, per strada, così, ha il diritto ad annullare quel contratto entro 10 giorni senza pagare alcuna penalità. Qual è la condizione di questo diritto di ripensamento? Che il contratto deve riguardare il consumatore. Se il contratto riguarda invece l'impresa artigiana, l'impresa commerciale, un'industria, ed è il nostro caso, il diritto di ripensamento in questo caso non viene applicato. Il primo problema è: questo contratto è legato ad un servizio in quanto consumatore o il contratto è intestato all'attività commerciale? Perché le cose sono diverse. Ecco, se allora, è intestato all'attività commerciale, questo esce dal diritto di ripensamento. Allora, Mashadawi Osama, lei l'ha firmato come singolo o a nome della sua pizzeria? Io non ho fatto niente, cioè l'ho fatto Non l'ho fatto neanche, non ho pensato né per me né per la pizzeria. Ecco, allora sentiamo Giannubilo, la firma era a nome di Mashadawi o della sua pizzeria? Allora, dottore, questi contratti sono rivolti a delle imprese artigiane, nello specifico della pizzeria impresa artigiana, perché a loro volta possono rivendere ai loro avventori guadagnandoci su quel prodotto. Benissimo, allora abbiamo capito, anche perché c'è il timbro e la firma sul contratto di Crissar Pizzeria, faccio anche a questo punto il nome in maniera tale che è una piccola pubblicità che chissà che non serva a risarcire parzialmente la mossa, a questo punto non so come definirla, comunque non voluta, di firma di un contratto da parte del nostro radioascoltatore. Mi pare che la situazione sia tutto sommato abbastanza chiara, non Landi? Consumatore, c'ho diritto al ripensamento. Se è un'attività commerciale, produttiva, artigianale, il diritto non scatta. Esattamente. Non è, e quindi credo, in questo quindi caso, allora uno deve fare una causa nei confronti di questa persona qui, che chiaramente mi sembra abbia raggirato il consumatore, per dolo o per errore. Se ci sono persone che ci ascoltano e che hanno avuto lo stesso trattamento, cioè di raggiro, allora in quei casi, se ci sono più persone che hanno avuto lo stesso identico trattamento e quindi siamo in grado di dimostrare che siamo di fronte ad un'azione commerciale scorretta, certo, a questo punto si denuncia all'autorità della concorrenza e c'è una legge che sanziona pesantemente queste operazioni commerciali scorrette o sleali. Le posizioni sono a questo punto chiare. Io ringrazio l'avvocato Giannubilo, il nostro radioascoltatore Paolo Landi, segretario generale della Adiconsum, in regia Fabio Cantadori e in studio Laura Faginna. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.